Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, che oggi parla con Gianluca Costantini, che è un vignettista che a Bologna ben conosciamo, se non altro per quell'immagine di Patrick Zaki che è stata così importante come simbolo e come messaggio per portare alla liberazione di questo studente dell'alma mater tenuto prigioniero nelle carceri egiziane. Ma non solo Patrick Zaki, un altro volto sta in qualche modo presente nell'informazione italiana ed è quello di Cecilia Sala, detenuta nelle prigioni iraniane a modo di ostaggio. In realtà l'attività di Gianluca Costantino è un'attività di vignettista militante. Nel suo blog, le sue denunce, un blog seguitissimo, più di 500.000 contatti e quindi davvero un messaggio di massa che parla di diritti umani in tutto il mondo e in questo modo si mette a contropelo di tanti regimi dittatoriali e quindi cade nella immancabile blacklist, cioè non desiderato, in paesi come Cina, come la Turchia, come Israele. E per Israele, per l'appunto, è l'ultimo impegno forse più importante di Gianluca Costantini, perché in una serie di immagini, di volti, ci riporta tutti i giornalisti famosi e non uccisi nella guerra israeliana dopo il 7 ottobre. Questo perché, come racconterà lo stesso Gianluca Costantini in questo nostro incontro organizzato dal CRAP ancora nel mese di settembre scorso, la libertà di informazione è uno dei diritti più importanti in questo momento. Purtroppo da quel settembre Gianluca Costantini ha dovuto ancora molto disegnare volti di giornalisti assassinati, perché il numero degli omicidi è cresciuto davvero in maniera impressionante. A questo punto, dopo lo stacchetto musicale, la parola allo stesso Gianluca Costantini. Dal 7 ottobre dell'anno scorso, quasi un anno esatto, ho iniziato, come faccio quotidianamente, a disegnare quello che succede nel mondo. E io ho un privilegio molto a raccontare quello che succede nel Medio Oriente. E da un po' di tempo, visto che ci sono così tanti purtroppo conflitti, ho iniziato a disegnare i giornalisti che vengono uccisi durante il conflitto. Questo perché la libertà di espressione, quindi anche la libertà di informazione, la libertà di essere informati, fa parte per me di uno dei diritti dell'uomo, dell'umanità. E i giornalisti vanno in qualche maniera protetti per poter fare questo lavoro. Dal 7 ottobre in poi Israele ha deciso di uccidere intenzionalmente tutti i giornalisti che si trovavano di fronte. Ci troviamo di fronte a uno dei più grandi casi di massacro giornalisti in un conflitto. Questo lavoro l'ho iniziato a fare con il Comitato di Protezione dei Giornalisti di New York. Il Comitato di Protezione dei Giornalisti di New York è uno dei centri più importanti al mondo che si occupa di proteggere i giornalisti e ha una sede a New York ma ha delle piccole sedi un po' in tutto il mondo che controllano la situazione della libertà dei giornalisti. Prima del 7 ottobre il paese con più, per esempio, giornalisti in carcere era la Cina. Da quest'anno a Israele. Perché lo faccio poi? cerco di prendere, rappresentare questi visi, questi giornalisti, in questo caso giornalisti palestinesi, che sono, erano giornalisti quasi tutti locali, come se fossero del vostro quartiere, non di Repubblica, ma dei giornali più locali, che cercavano di coprire le notizie che succedono in Palestina, in quanto tutti gli altri giornalisti delle grandi emittenti era stato vietato di stare nel territorio palestinese. Quindi erano gli unici nostri occhi che avevamo per sapere quello che l'esercito israeliano o anche i miliziani di Hamas stavano facendo in quel momento. Quindi non è importante se un giornalista è schierato da una parte all'altra, non è importante che sia un giornalista di Hamas o un giornalista di un'emittente libera, è importante che tutte queste persone ci diano la loro testimonianza in modo che noi, incrociando tutte le loro informazioni, possiamo sapere all'incirca quello che succede in questa guerra. Per esempio, in Ucraina i giornalisti possono fare il loro lavoro a Kiev, possono stare nei territori ucraini per raccontare quello che fanno i russi. Avete visto che ci sono invece molti problemi per i giornalisti che cercano di andare in Russia per poter raccontare quello che succede in questi giorni, anche dei giornalisti italiani. Ecco, da quel giorno lì, insieme a loro, quindi nel momento in cui il comitato mi diceva questa persona è stata uccisa in questa maniera ed è verificato che è stato ucciso in questa maniera, è verificato che è un giornalista ed è verificato come è stato ucciso, puoi disegnarlo, in modo che noi in questa maniera ci proteggiavamo da qualsiasi tipo di attacco poi che, sapete, succede nel momento in cui vengono pubblicati alcuni contenuti su Israele. Ecco, quindi i testi sono stati scritti dal comitato dei giornalisti e io ho illustrato questi visi. Ecco, il comitato ha ritenuto che per ora in Palestina sono 116, le fonti dicono che sono anche 180-190, ma in verità questi sono proprio giornalisti al 100%, perché ci sono molti che sono diventati giornalisti nell'emergenza, giornalisti improvvisati, non veri giornalisti. Avevamo iniziato come pensavamo qualsiasi conflitto, quindi pensavamo, che ne so, in tutta la guerra russo-ucraina i giornalisti uccisi sono stati circa meno di 20, e quasi tutti stranieri, inviati francesi, americani e di altri paesi. Qui invece, man mano, giorno per giorno, aumentavano sempre di più ed è stata una privazione di informazione che noi abbiamo di quello che succede. È anche molto importante perché costruisce una memoria di queste persone, perché sono, molti di loro avevano foto di bassa qualità, non erano giornalisti importanti, famosi, mentre il disegno li mette tutti nello stesso piano. Quindi c'è il giornalista di Al Jazeera, che è una superstar, che era una superstar, ma ci sono anche i giornalisti non famosi. Questo li mette tutti nello stesso livello perché hanno tutti la stessa importanza per noi, per sapere quello che succede. Ora adesso è importante capire come si può fermare un governo che fa quello che gli pare, fregandosi di tutti i diritti internazionali che abbiamo costruito dal dopoguerra fino ai giorni nostri. We'll be right back. E dopo le illustrazioni ai fumetti militanti di Gianluca Costantini, andiamo a monitorare con l'intervista di Morena Moretti cosa succede nell'associazione culturale di Luigi Bernardi, questa associazione che è dedicata a questo editore, scrittore, saggista, sceneggiatore, traduttore, nonché critico fumettistico, che tra l'altro a suo tempo teneva questa trasmissione Segnali di Fumo proprio qui a Radio Città. Delle novità dell'attività dell'associazione culturale Bernardi ce ne parla il figlio Marco Bernardi, che è un po' l'animatore del centro stesso. Marco Bernardi, la vostra associazione culturale che è dedicata a Luigi Bernardi, che è stato editore, autore, promotore o agitatore culturale, da gennaio di quest'anno ha rinnovato e anche rilanciato il proprio sito. Quindi, Marco, cosa resta di quello vecchio e quali sono le novità che troviamo in questa versione? Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi abbiamo deciso che di iniziare, come ogni anno, perché l'11 gennaio era il compleanno di mio padre, quindi è sempre per noi un momento di comunicazione di novità, quest'anno dedicarci al nuovo sito. Il nuovo sito internet, che in realtà www.luigibernardi.com, peraltro, esisteva già in una struttura concepita da mio padre negli ultimi anni della sua vita, che poi noi avevamo, nel momento della creazione dell'associazione, giusto aggiornato aggiungendo una piccola sezione per l'associazione. Il sito mantiene sostanzialmente in questa nuova versione tutti i contenuti che c'erano nella precedente, con una grafica ampiamente aggiornata e direi anche migliorata, molto più dinamica, molto più facile anche da navigare, e aggiunge una serie di contenuti nuovi, sicuramente molti dedicati a quello che l'associazione poi ha fatto in questi ormai 11 anni da quando esistiamo, e poi una serie di cose che magari mio padre non aveva proprio bene catalogato all'epoca, un po' perché se le era perse, un po' perché non ne aveva avuto particolarmente voglia, e che noi abbiamo deciso di integrare in maniera da rendere il sito realmente, passatemi il termine, una Bibbia o un almanacco di tutto quello che ha fatto Luigi Bernardi nella sua carriera. Sì, tutto quello che ha fatto, quindi ci sono, c'è l'editoria, ci sono i fumetti, i racconti, tutto quello a cui si è dedicato, ma c'è anche una parte di novità, cioè l'associazione è cresciuta e quindi anche in che cosa l'associazione si è impegnata in questi anni e che cosa ha proposto e propone. Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo voluto dedicare, a parte una sezione di news e di eventi che riassume tutti gli eventi che abbiamo organizzato in questi anni, anche due sezioni dedicate alle cose principali che abbiamo voluto seminare. Una alle collaborazioni, quindi tutte le collaborazioni che abbiamo stretto in questi anni, da quelle più storiche con l'Alliance Française di Bologna, il Dipartimento di Italianistica dell'Università di Bologna, più altre più recenti, ad esempio la collaborazione con il portale gialli.it basato a Napoli, che poi dà vita al Festival del Giallo Città di Napoli, nel quale noi partecipiamo ormai annualmente. L'altra sezione che spiega molto bene qual è stata anche la nostra attività è quella dei cosiddetti fondi, ovvero il fatto che noi abbiamo da subito deciso di valorizzare il patrimonio librario che Luigi Bernardi ci ha lasciato, separandolo in fondi tematici che poi abbiamo donato a varie istituzioni culturali. Nel sito c'è una mappatura dei vari fondi, dove sono stati collocati, anche in questo caso l'Alliance Française di Bologna per il materiale francese, la Biblioteca Ezio Raimondi dell'Università di Bologna per tutta un'altra serie di materiale in lingua italiana, e appunto che cosa contengono questi fondi e anche i collegamenti vari per poter visitarli, recuperare il materiale, in maniera da dare proprio una mappatura fisica di quello che è stato il nostro lavoro in questi anni. Sì, un sito direi molto fruibile, io l'ho frequentato e devo dire che è davvero fatto molto bene, ma ti chiedo anche per il futuro, siccome siamo comunque all'inizio dell'anno, la vostra associazione è un'associazione veramente molto attiva, e quindi se avete già in programma, in progetto qualche iniziativa o qualche proposta. Certo, allora, noi diciamo, usciamo da un 2024 molto denso, quindi stiamo ancora cercando di digerire quello che è successo nel 24 per programmare bene il 25. Sicuramente sappiamo già che, come ho già anticipato, parteciperemo anche quest'anno alla nuova edizione del Festival del Giallo Città di Napoli, che si terrà tra fine maggio e inizio giugno, dove ormai abbiamo una rubrica fissa all'interno della programmazione per parlare di giallo, noir e fumetto, come faceva mio padre all'epoca. Poi siamo in attesa di una conferma dalla Sicilia, con cui collaboriamo con l'associazione locale Fumetto Mania Factory APS, per inaugurare una biblioteca del fumetto che intitoleranno a Luigi Bernardi. Stiamo aspettando che mettano a posto tutti i punti burocratici in maniera da probabilmente avere l'inaugurazione anche qua durante i primi sei mesi dell'anno. Poi probabilmente il grosso del lavoro del 25 si dedicherà a qualcosa per il 26, ovvero un lavoro che svolgeremo in collaborazione con la famiglia di Daniele Panebarco, il grande fumettista e umorista ravennate, che l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di carriera e gli 80 anni di vita, e in accordo con la figlia e con Daniele stesso vorremmo supportarli nell'organizzazione di mostre e eventi per celebrare quello che è stato forse uno dei fumettisti più amati da mio padre e comunque anche un suo grande amico dalla metà degli anni 70 in poi. Benissimo Marco, allora io darei di nuovo dei riferimenti per la vostra associazione, avete anche una newsletter e anche dei social. Assolutamente, allora partiamo quindi, come ho già detto, dal sito internet www.luigibernardi.com, dal sito potete anche accedere alla sezione per iscrivervi alla newsletter e eventualmente anche sostenerci tramite il tesseramento che è aperto da sabato scorso per tutto il 2025. Abbiamo poi una pagina Facebook e una pagina Instagram che cerchiamo di mantenere aggiornate abbastanza fluidamente, ci trovate comunque cercando l'associazione Luigi Bernardi sui vari social, e infine anche un canale YouTube dove in questi anni abbiamo stoccato i vari video girati nelle varie iniziative da noi organizzate. Chi ci segue sa perfettamente quanto noi amiamo vedere come i fumetti, le vignette si intrecciano con le altre forme espressive e creative. Questa volta l'incrocio è importante perché si parla di resistenza, di teatro, di fumetti e anche di musica rock. Infatti parliamo di The Beat of Freedom, la resistenza fumetti, una pièce teatrale tratta dal libro Io sono l'ultimo, lettere di partigiani italiani, in scena Marta Cuscunà, con i disegni di Fabio Babic, conosciuto perfettamente per i suoi lavori per la Sergio Bonelli editore e disegnatore del Drago Nero. Il tutto condito, si diceva, con la musica rock. Di questi strani incontri del terzo tipo sentiamo al microfono di Willy la stessa Marta Cuscunà. La Resistenza a fumetti di e con Marta Cuscuna. Illustrazioni live sono di Fabio Babic e portiamo allora un approfondimento di anticipazione per quanto riguarda un titolo importante, The Beat of Freedom, la resistenza a fumetti. Intanto Marta, con motivo di disegno, di palcoscenico, come sarà appunto e soprattutto l'importanza di parola resistenza? Allora, The Beat of Freedom si ispira a questo volume che raccoglie lettere di partigiani e partigiane italiane, che è stato pubblicato nel 2012 dall'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, che ha pensato di andare a cercare gli ultimi partigiani ancora in vita e chiedere loro di scrivere delle lettere, pensando di rivolgersi a quei giovani che non faranno in tempo a conoscerli e sentire le loro storie dalla loro viva voce. Il libro è bellissimo, ci sono lettere che in qualche modo danno uno sguardo sulla resistenza completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, forse dai libri di scuola o dalla retorica delle cerimonie, perché queste donne, questi uomini ormai anziani, nel momento in cui hanno pensato di parlare ai giovani, hanno raccontato della loro giovinezza e di come la lotta di liberazione ha cambiato dalle fondamenta non solo il nostro paese, facendolo diventare una repubblica, ma anche l'amore e l'amicizia. E questo proprio perché durante la resistenza è cambiato il rapporto tra uomini e donne, è stata la prima volta che i ruoli maschili e femminili andavano a gambe all'aria, le donne finalmente, le giovanissime ragazze che salivano in montagna avevano gli stessi incarichi degli uomini, portare armi, nascondere stampa clandestina, portare messaggi, e subivano anche purtroppo le stesse conseguenze, quindi essere imprigionate, subire torture, essere uccise, e questa cosa di essere finalmente uguali ed equi ha necessariamente cambiato il modo di amarsi e di pensarsi amici. Sì, mille sfaccettature in un aspetto che io ho detto una parola importante, è il contenuto, è il concreto che è importantissimo. Intanto parliamo di interazione tra disegno, l'immagine, c'è anche la parola fumetto in tutto ciò, e del palcoscenico. Ci puoi dire qualcosina di più a proposito di questo curioso aspetto, sempre particolare? Sì, la versione di The Beat of Freedom a fumetti è nata durante il lockdown, quando ci siamo trovati a celebrare il primo 25 aprile, chiusi ognuno a casa propria, e per condividere The Beat of Freedom attraverso lo schermo ho pensato di coinvolgere Fabio Babic, che è un fumettista meraviglioso, forse gli esperti di fumetto lo conosceranno perché lavora per Bonelli ormai da anni e quindi è una penna veramente prestigiosa, e lui ha il compito di evocare appunto i contenuti che io leggo attraverso il disegno, diverse tecniche, quindi il pubblico vedrà dal vivo la creazione di queste illustrazioni, di queste sue tavole, a volte con gli acquerelli, a volte con le matite, a volte con i pennarelli, e nel tempo della lettura e della musica il pubblico proprio vedrà nascere dal primo tratto fino all'ultimo dei disegni, che mano a mano che la storia va avanti magari cambiano completamente significato. Anche solo girando il foglio si scopre che quello che stava disegnando Fabio poteva prendere appunto un significato completamente diverso. E come sottofondo a tutto questo c'è una colonna sonora rock, perché l'idea è stata quella di trovare dei collegamenti per portare un po' più vicino a noi questo periodo della storia del nostro paese, che ormai sappiamo è abbastanza lontano, e quindi mi è sembrato che il movimento rock sia stato in qualche modo analogo in un'epoca diversa, anche lì c'erano giovani che attraverso la musica cercavano di portare avanti l'idea di un mondo diverso, di relazioni diverse. E paradossalmente la cosa che mi ha stupito è che in alcuni testi, per esempio di Patti Smith o di Lou Reed, ci sono proprio le stesse parole usate dai partigiani per evocare quell'atmosfera, quel senso di libertà e di partecipazione che avevano trovato in montagna. Thank you.